annoi sempre più. Scienziati ed ingegneri hanno inventato già una generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. È come un arlecchino, ma non si rompe mai. Attacchi la corrente, s'accende e partirà. Oh, rock and roll robot. Oh, rock and roll robot. Io ti amo, io ti cerco, io ti voglio. Rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco. Robot.